Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, uno spazio dedicato alle istanze, alle iniziative, alle pratiche del movimento animalista, antispecista e vegan. Andiamo in onda settimanalmente dal 2012 perché consideriamo gli animali non umani degni di rispetto e vittime di un'ingiusta oppressione. Siamo arrivati alla puntata numero 558, nella quale parleremo del match ambientale Russia-Brasile, sirenette killer, squali farmacologici e gabbie da abolire. Speriamo di avervi incuriositi. Notizia di questa settimana che prendiamo da un comunicato di Greenpeace ci porta nella penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente russo, a nord del Giappone. Un inquinamento del mare di origine ancora ignota sta interessando la spiaggia di Kalaktirskij e altre baite vicine e si sta muovendo verso il sito UNESCO, Patrimonio dell'Umanità, chiamato i vulcani della Kamchatka. All'inizio della settimana scorsa i surfisti locali avevano riferito che l'acqua della spiaggia aveva cambiato colore e aveva causato eruzioni cutanee e occhi gonfi. Nelle scorse ore un team di Greenpeace Russia si è recato sul posto a raccogliere testimonianze dirette di quanto sta avvenendo e ha diffuso foto di spiagge ricoperte di animali marini morti, portati a riva dalla corrente e acqua del mare che ha cambiato colore e densità. Greenpeace chiede al governo russo di proteggere il territorio, rafforzando le politiche ambientali per una trasformazione verde dell'economia. Gli esperti locali hanno rilevato in mare un aumento di 3,6 volte dei prodotti petroliferi e un aumento di 2 volte del fenolo, un composto acido. La gente del posto sta pubblicando foto e video della spiaggia con le carcasse di animali marini morti. Be alright. Drift away tonight. On the river of good fortune. Dalla lontana Kamchatka russa andiamo in Brasile, dove nel mese di settembre è stato registrato un aumento del 61% degli incendi in Amazzonia, con punte del triplo nella zona del Pantanal. Questi dati, riportati da Asca News, sono stati diffusi dall'Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali Brasiliane, l'INPE. I satelliti hanno identificato 32.000 focolai amazzonici contro i 19.900 del settembre 2019. Si tratta del dato peggiore dal 2017 a questa parte. L'attenzione al problema è stata richiamata martedì da Joe Biden, candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, durante il dibattito contro l'avversario Donald Trump. Sotto la presidenza Bolsonaro, iniziata nel 2018, la deforestazione brasiliana è aumentata notevolmente rispetto agli anni precedenti. Bolsonaro, interessato soprattutto allo sviluppo economico della zona, aveva da subito ridotto le sanzioni, gli avvertimenti e i sequestri operati dalle autorità brasiliane verso le società che partecipano alla deforestazione. L'Amazzonia è la più grande foresta tropicale al mondo, con una superficie di circa 5,5 milioni di chilometri quadrati, oltre la metà dei quali in territorio brasiliano. È uno degli ecosistemi più ricchi al mondo. La sua esistenza controlla il rapporto tra ossigeno e anidride carbonica nell'atmosfera, incide sulle quantità di piogge, sulle correnti oceaniche e sulle temperature globali. Noi, della redazione di Restiamo Animali, pensiamo che un bene così prezioso per tutto il pianeta e per tutta l'umanità, come l'Amazzonia, non possa e non debba essere alla mercé del governo di un unico paese. Existing or not. Cambiamo notizia, cambiamo paese. Un comunicato dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione, ci porta in Danimarca. Il paese della sirenetta, creatura interspecifica per metà umana e per metà non umana, abbatterà circa 1 milione di visoni dopo aver scoperto nuove infezioni da coronavirus tra gli animali negli allevamenti. La terra dei vichinghi è oggi il principale allevatore mondiale di questi piccoli mammiferi, la cui pelliccia è usata per realizzare cappotti e sciarpe. Nuovi casi sono stati registrati in 41 allevamenti e si ritiene che altri 20 siano stati colpiti, per un totale di 1 milione di visoni. Lo ha dichiarato il ministro dell'ambiente Mogens Jensen. Gli allevamenti di visone, commenta la LAV, sono potenziali bombe a orologeria. Rinnoviamo l'appello al ministro Roberto Speranza per introdurre anche in Italia il divieto all'allevamento di visoni e altri animali per la produzione di pellicce. Danimarca, scendiamo in Trentino, dove registriamo una novità importante sulla fallimentare gestione della convivenza con gli orsi. il presidente della provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, ha revocato la vituperata ordinanza da lui firmata il 27 agosto scorso, che predisponeva cattura e detenzione di qualsiasi orso che si fosse avvicinato ai centri abitati anche senza causare danni. Questa decisione è in realtà una scelta obbligata, dal momento che mancano luoghi idonei in cui rinchiudere altri orsi. Cioè Fugatti non ha cambiato idea, si rende però conto che non è ancora organizzato per poter attuare il suo piano. Attualmente 3 orsi sono prigionieri nel centro faunistico Casteller della provincia autonoma di Trento. Gli esperti di CITES e ISPRA, che hanno recentemente effettuato un sopralluogo, hanno denunciato gli spazi di detenzione definendoli inadeguati. I 3 individui ospitati nella struttura devono essere costantemente sedati per tollerare quella situazione e riportano comunque una condizione di avvilimento e depressione. L'ormai celebre orso M49 Papillon, che per ben 2 volte è fuggito da quella prigione e che per ben 2 volte è stato sfortunatamente riacciuffato, ha smesso di alimentarsi e si scarica contro la saracinesca della sua prigione. M57, un orso di soli 2 anni e mezzo, colpevole di avere aggredito un giovane carabiniere, si alimenta, ma ripete costantemente dei movimenti in maniera stereotipata, causandosi lesioni cutanee all'avambraccio sinistro. Poi c'è DJ3, femmina di orso, la cui storia è la più triste. DJ3 infatti ha 11 anni ed è stata condannata alla prigionia 9 anni fa, perché si avvicinava ai paesi della Val di Non. Dunque vive lì rinchiusa già da 9 anni, in totale solitudine, con la prospettiva di vivere altri 30 o magari 40 anni in quelle condizioni. Le associazioni EMPA, LEAL, LAV e OIPA chiedono la liberazione immediata dei 3 plantigradi, vittime di gravissimi maltrattamenti. Libertà per tutti, aggiungiamo noi, e naturalmente libertà per tutti gli orsi. L'organizzazione senza scopo di lucro Shark Allies ha annunciato che, fra i vaccini contro il coronavirus SARS-CoV-2 da destinare alla popolazione umana in corso di sperimentazione in Cina, ce ne sarebbero 5 che utilizzano una sostanza chiamata squalene. Qualora un vaccino a base di squalene di origine animale dovesse superare tutti i trial clinici di sicurezza ed efficacia, per produrre dosi sufficienti per immunizzare l'intera popolazione mondiale, si stima che dovrebbero venire uccisi ben 250.000 squali per le preparazioni a singola iniezione e 500.000 di squali per quelle che ne richiedono 2. Per richiamare l'attenzione su questo rischio, Shark Allies, veterinari e attivisti ambientalisti hanno aperto una petizione su change.org, richiedendo che le case farmaceutiche coinvolte nell'uso di squalene sostituiscano quello di origine animale con quello estratto dai vegetali. Infatti lo squalene può essere ottenuto anche dall'olio di oliva, dal lievito, da batteri, dalla canna da zucchero e probabilmente anche dalle alghe. Laboratori e case farmaceutiche però si rivolgono a quello di origine animale per una questione economica. Lo squalene vegetale, infatti, costa il 30% in più di quello estratto dal fegato degli squali, per il semplice motivo che per estrarlo dai pesci il processo dura solo 10 ore, mentre per ottenere quello vegetale ne occorrono 70. La petizione da firmare e diffondere si trova sulla piattaforma change.org. Parole chiave: Stop Using Sharks in Vaccine. Redazione di Restiamo Animali è lieta di annunciare una nuova rubrica, un nuovo ciclo di brevi ritratti animali legati alla cronaca, curati dallo scrittore, attivista e insegnante Francesco Cortonesi, da sempre amico della redazione di Restiamo Animali. Se le sue storie vi piaceranno, potrete seguire Francesco Cortonesi, l'autore, sui social. Alcuni giorni fa la notizia dell'aggressione a una dipendente dello zoo di Madrid messa in atto da un gorilla è rimbalzata su tutte le testate internazionali. Malabo, questo è il nome del gorilla, avrebbe aggredito la dipendente in circostanze ancora non molto chiare. Purtroppo le ferite riportate dalla donna, che ben conosceva Malabo, sono piuttosto gravi e questo ancora una volta ha sollevato il problema della sicurezza negli zoo. Ora, è evidente che ciò che è accaduto ha colpito la stampa generalista perché il gorilla è un animale molto pacifico ed è rarissimo che attacchi l'uomo. Però occorrerebbero alcune considerazioni. La prima è che questi incidenti molto frequenti accadono in situazioni inaspettate perché spesso gli animali subiscono un forte stress a causa della reclusione e ciò naturalmente si ripercuote sulla loro psiche. La seconda è che gli zoo tendono a non dare aggiornamenti su quanto accaduto. Questo perché gli incidenti non fanno bene alla reputazione. Ciò significa che le cause di queste aggressioni vengono nascoste perché scomode. Di Malabo, ad esempio, non sappiamo più nulla da circa 10 giorni. Ovviamente, appena possibile, cercherò di aggiornarvi sulla sua sorte. Nobody does it better. Makes me feel sad for the world. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. Somehow you found me. I try to hide from your love. Con una notizia positiva, una notizia di attivismo diffuso e di proporzione europea. ICE è acronimo di Iniziativa Cittadini Europei, ma è anche uno strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione Europea che consente ai cittadini di presentare alla Commissione Europea una proposta di legge o chiedere l'abrogazione di una legge esistente, purché si raccolgano almeno 1 milione di firme da parte di cittadini, non tutti residenti in un unico paese, bensì in almeno un quarto degli stati membri. Ad oggi soltanto 4 iniziative hanno raggiunto il numero richiesto di firme. Right to Water, diritto all'acqua, One of Us, uno di noi, Stop Vivisection, basta con la vivisezione, e Ban Glyphosate, vietare il glifosato. Le ICE non sono vincolanti per la Commissione, che però deve in ogni caso fornire una risposta esponendo, in merito all'iniziativa, le sue conclusioni, sia sul piano giuridico che su quello politico. E la politica non può non tener conto del consenso popolare che si crea attorno all'istanza in questione. L'ultima ICE riguarda i diritti degli animali, così come fu anche per l'iniziativa Stop Vivisection. Quest'ultima iniziativa si chiama End the Cage Age, e chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti. Lanciata l'11 settembre 2018, End the Cage Age ha raccolto in un anno 1,6 milioni di firme, ben al di sopra del minimo necessario richiesto, cioè di 1 milione di firme affinché l'iniziativa sia valida. Le gabbie sono il simbolo per eccellenza della crudeltà, sostengono i promotori, perché confinano grandi numeri di animali in spazi ristretti e chiusi, senza rispetto per le loro esigenze etologiche e fisiologiche, e rendendo necessario l'uso massiccio di antibiotici. Il sostegno da parte dei cittadini per questa iniziativa conferma l'enorme sensibilità collettiva nei confronti del benessere animale, ma anche una generale consapevolezza della nocività degli allevamenti intensivi. Ora il pallino passa alla Commissione UE, che deve rispondere, sperabilmente con concrete proposte legislative, per mettere fine all'uso delle gabbie negli allevamenti, all'interno del territorio europeo. Il successo schiacciante di questa iniziativa sia un messaggio chiaro anche per il governo italiano, hanno dichiarato gli organizzatori italiani della raccolta firme. Chiediamo che neanche un centesimo del Recovery Fund sia speso per ristrutturare, incentivare o costruire nuove gabbie, nuovi sistemi concentrazionari per nessuna specie. America. Großes Kino. Holzgetäfelt. Evangelisten Session in Progress. Die Bühne betritt unter Applaus ein französischer Freund der Gemeinde. Benoit. Tänzer und Tänzerinnen. Am I only Jesus? I am only Jesus. Abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la ricetta di questa settimana al superamento di tutte le gabbie. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E siamo di nuovo a parlare di gabbie. Ma lo volete capire che a noi le gabbie ci piacciono solo se sono da sgranare? Quelle da abbattere a suon di morsi e forchettate. E per ribadire il concetto, ecco la ricetta della caciottina di cece e noci in gabbia di porri. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di farina di ceci, 150 ml di yogurt di soia al naturale, 250 ml di latte di soia, il succo di mezzo limone, 20 g di noci sgusciate, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, 2 porri, degli aghetti di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Thank you. Stemperate la farina di ceci con lo yogurt e il latte di soia. Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine, il succo di limone, il lievito alimentare, sale e pepe e lasciate riposare per una mezz'ora. Nel frattempo tagliate i porri in verticale ottenendo dei rettangoli. Scottate i porri per 10 minuti in acqua salata e scolate. Quindi passate in padella con un filo di olio extravergine facendo attenzione a non rompere le losanghe di porro. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Recuperate la pastella di ceci, aggiungete le noci tritate e fate cuocere a fuoco lento in una casseruola per circa 15 minuti. Otterrete una crema molto densa, simile a una polenta. Versate il composto in 4 stampi rotondi e lasciate raffreddare. Successivamente fate riposare per un'ora in frigorifero. Una volta che le caciottine di ceci saranno ben compatte, avvolgetele nei fogli di porro e adagiate il tutto in una teglia con carta forno spennellata di olio extravergine. Fate cuocere per 10 minuti in forno ventilato a 180 gradi e servite le caciottine calde decorando con un rametto di rosmarino. Take your foot off the gas, because it's all downhill from here. You are a manifestation of the universe. Your form is unimportant, but please come over here. While the world got technologically infatuated, busy getting saturated. I like it dark, movie on the yin and yang, for you and me, the male and the female. Uscito l'ultimo libro di Gabriele Palloni. Il titolo è Se vuoi essere sano, cucina vegano. Oltre 300 ricette della tradizione, stagionali, vegane, 64 foto a colori a piena pagina a soli 5,90 €. In vendita su newtoncompton.com. Un regalo di Natale imprescindibile. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. Ringraziamo Francesco Cortonesi e vi diamo appuntamento per la puntata numero 559 di Restiamo Animali tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.